Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Il volantino che ha affisso il giorno di Natale dal titolo Le donne e il femminicidio facciano sana autocritica quante volte provocano, scaricato dal sito pontifex.it, è stato rimosso. Secondo lei le donne possono provocare a tal punto da meritare la morte? Dipende dalla volontà di Dio. Giustificano, no, no, no, però delle volte le donne tirano un po' per i capelli, diciamo, gli uomini per certi versi. Non lo so, può darsi anche, in certi posti quando vanno tutte nude. Sì, in parte ha ragione, però poteva anche dire che le donne subiscono violenze, ce le ammazzano, Ho fatto rimuovere immediatamente quel volantino i cui contenuti sono fuorvianti rispetto ai sentimenti di condanna per la violenza contro le donne, ha spiegato in un comunicato. Don Piero aveva già fatto parlare di sé in passato quando aveva pubblicato sulla medesima bacheca commenti contro l'Islam e gli immigrati. Avete sentito dal giornale radio, nei pochi minuti che sono intercorsi tra il lancio di Melog che ho fatto poco fa e le notizie del giornale radio Radio 24, questa vicenda di cui parliamo oggi già avuto un suo inaspettato e clamoroso esito. Don Piero Corsi ha lasciato l'abito talare, almeno ha dichiarato all'ANSA che lascia l'abito talare perché dice: dopo una notte insonne per il dolore e il rimorso, per la giusta polemica causata dalla mia imprudente provocazione, comunico che ho deciso di mettere da parte l'abito talare. Lo mette da parte, adesso non so se lo lascia proprio, tanto lo mette da parte, ma se lo toglie ci pensa un po' sopra, del quale mi sento indegno, dice Don Corsi. Noi l'abbiamo chiamato un istante fa, Don Corsi ci ha risposto che i giornalisti sono sempre i soliti, qualcosa del genere, poi ha messo giù il telefono. Spero che stia in ascolto questa trasmissione. In ogni istante che lui volesse partecipare, entrare, dire la sua ragione, saremo pronti ad accoglierlo, ma proveremo anche a chiamarlo noi fra un po'. 800 24 00 24. Lei ha scritto le donne facciano autocritica quante volte provocano o non l'ha scritto? Capisce che se lei una frase la scancia dal prima e il dopo, le può far dire molte cose molto diverse da quello che sta dicendo, no? Però lei questa cosa l'ha scritta. Ma lei ritorna a ripetere quello che ha detto prima. Cioè, scusi, quando lei vede una donna nuda, cosa prova? Quali sentimenti prova? Quali reazioni prova? Beh, ma questo che non c'entra? Non so se è un frocio anche lei o meno. Cosa prova quando vede una donna nuda? Non è violenza da parte di una donna per mostrarsi in quel modo lì? Senta, ma quindi la sua tesi il qual è? Il collega donna... Paolo Poggio del GR2 non fa un plissé, gli fa dire in faccia dal sacerdote, cioè, scusi lei, se vede una donna nuda cosa fa? A meno che non sia frocio, qualcosa deve fare per forza. Perché probabilmente nella sua visione manichea dell'esistenza, donna spogliata equivale aggressività maschile. Non è proprio esattamente così, è un po' più sfumata la cosa. Non occorre necessariamente essere froci per saper resistere o per non avere un'immediata reazione di assalto nei confronti di una donna spogliata. È una visione piuttosto consueta, piuttosto comune. Uno può anche pensare altro, averci anche altri pensieri, non avere quell'idea fissa. Volevo ricostruire la vicenda di cui parliamo questa mattina, però non è detto che tutti ne abbiano perfetta e totale conoscenza. Notizia è cominciata a circolare ieri, un sacerdote, come abbiamo detto, Don Piero Corsi, il parroco della chiesa di San Terenzio di Lerici, ha affisso sulla porta della sua chiesa un volantino. Un volantino che a sua volta aveva fotocopiato da un sito internet Pontifex, che è un sito di integralisti cattolici che dicono delle volte delle abnormità, però secondo me, dal mio punto di vista, è giusto che possano avere spazio per dire quello che pensano, sia condivisibile o non condivisibile. Uno di questi volantini, uno di questi post sul sito Pontifex parlava proprio del femminicidio. Le donne facciano sana autocritica quante volte provocano. Era un pezzo piuttosto articolato in cui si diceva che in realtà, prendendo le distanze e sottolineando il fatto che comunque chi uccide le donne è un malfattore, un delinquente, figuriamoci su questo, siamo tutti d'accordo, dice però, mette dei però le donne che in effetti cadono nell'arroganza, si credono autosufficienti, finiscono a esasperare le tensioni, bambini abbandonati a loro stessi, questo non l'hanno detto molti giornali, ma questo è il senso vero, case sporche, piatti in tavola freddi e da fast food, vestiti sudici, dunque se in famiglia finisce a ramengo, si arriva al delitto, forma di violenza da condannare e punire con fermezza. Dice che in realtà le responsabilità dei tanti casi di femminicidio, cioè di donne uccise dalla furia di uomini, è dovuta anche a un comportamento delle donne che in un certo senso hanno rinunciato al loro ruolo tradizionale, e in più mette anche il fatto che poi se le donne vanno con abiti provocanti e succinti è chiaro che può succedere qualcosa. Quanti tradimenti si consumano sui luoghi di lavoro, nelle palestre, nei cinema? Potrebbero farne a meno, costoro provocano. Quindi è una visione un po' grossolana, però è un punto di vista che secondo me è molto condiviso, al di là delle prese di posizione ufficiale. Questi almeno hanno avuto il coraggio di dire quello che pensano. Dice: se ci sono tradimenti, ci sono adulteri, se ci sono disordini al di fuori del sacro recinto del matrimonio, la colpa è della donna, la grande tentatrice. Questa è una posizione radicalizzata. Ma io perché faccio questa trasmissione? Perché, come sospettavo, nei primi 30 secondi ho cominciato a gettare l'argomento, gli sms che sono arrivati sono esattamente questi: grande Don Piero, siamo con te, evviva Don Piero, cazzo il vescovo ha costretto il prete ad andarsene, facciamo parlare anche quelli a favore del prete, diteci, sono su Giannino, in Italia non c'è più libertà d'espressione, quanti giornalisti di merda. Probabilmente il prete parla per esperienza personale, forse l'abbandono dell'abito gli permetterà di sfogare i suoi istinti. Comunque, come vedete, l'opinione generale è divisa. L'opinione generale è divisa perché in fondo io sono convinto che non sia poi così una punta estrema, radicale, di follia di un parroco un po' indietro nella valutazione della sua contemporaneità, l'idea che in parte la donna sia molto responsabile degli episodi che la vede vittima. Beh, come la pensate voi? Questa mattina sono qui per ascoltarvi. 800240024. Ora io ringrazio il vescovo che ha fatto rimuovere il volantino, ma non sono ancora soddisfatta, perché io credo che questa persona, naturalmente quando io dico io parlo del telefono rosa, in nome del telefono rosa, noi non siamo ancora soddisfatte, perché credo che bisogna parlare con questa persona, capire perché prende certi atteggiamenti. Se il vescovo riflette un attimo sul significato che un ragazzo, un adolescente, un bambino, la reazione che può aver avuto nel momento in cui ha letto questo volantino. Questa è una delle dichiarazioni del presidente Telefono Rosa, Maria Gabriella Carneri Moscatelli, che ieri ha parlato molto chiedendo un intervento deciso. L'intervento deciso c'è stato, perché noi sappiamo che stamattina il sacerdote si doveva incontrare con il vescovo, ma evidentemente ha preceduto, si sono parlati o non si sa bene, la notte è stata consigliera di questa decisione drastica. Non so, non penso che poi alla fine si spreterà realmente, ma penso che questo comunque l'avrà fatto riflettere. L'ha fatto riflettere innanzitutto sulla differenza fra qualcosa che viene scritto in un sito internet e qualcosa poi viene stampato e attaccato nel portone di una chiesa. Diventa la voce ufficiale, è portatore di una voce ufficiale. Nel sito Pontifex ci sono delle persone che esprimono il loro parere. Uno può giudicarlo sbagliato, può criticarlo, può ritenerlo non adeguato ai tempi o al pensiero civile, però è giusto che abbiano libertà di scrivere in un sito internet. La rete è anche questo, la rete è un luogo in cui ognuno può esprimere la propria opinione, ognuno può ribattere l'opinione degli altri. Ma al momento che ciò che è scritto in un sito diventa viene equiparato alla pubblicazione di un matrimonio, a una pastorale, a un documento ufficiale della Chiesa, viene messo sulla porta della Chiesa, chiaramente la situazione cambia di spessore. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno. Guardi, la mia impressione è questa, un fondo di verità in quello che dice il prete purtroppo c'è, ma non è soltanto riferito al fatto alle donne, al femminicidio. Purtroppo viviamo in una società in cui gli umori si scaldano in maniera rapidissima e le connessioni cerebrali saltano in maniera altrettanto facile. È ovvio che le donne e gli uomini non sono così preparati a questo nuovo modo di fare civiltà, per cui le donne difendono a tutto tondo i loro pareri, le loro idee, a volte sbagliate, a volte giuste, non siamo qui a sindacare le idee, ma porta all'esasperazione degli uomini che per natura sono fisicamente più forti. È come dire pestare la coda a un leone, perché in quel momento si è belve, non si è esseri umani. Ma quale sarebbe la soluzione secondo lei? Che le donne tornassero a fare le donne? Guardi, no, se io avessi la soluzione avrei fatto dell'altro. Il problema la soluzione è cercare tutti quanti di contare fino a 10 prima di aprire bocca, parlare e di contare fino a 100 prima di alzare una mano o un braccio, perché è ovvio che le conseguenze di una parola sono una cosa, le conseguenze di un atto fisico sono un altro. Diciamo guardi, però, che secondo però me... ecco, la guerra sì. Scoppia se gli iraniani dicono domani buttiamo la bomba in Israele, e Israele gli spara. Diciamo che la bomba scoppia anche per quello che viene detto, ovviamente. Vabbè, scusi, no, però volevo sapere il suo parere. Al di là di quello che viene detto, il fatto l'abbiamo già analizzato, lo stiamo analizzando, è chiaro che non ha valutato la portata di un gesto che faceva nella sua funzione di parroco. L'avesse magari detto parlando così con delle persone avrebbe avuto meno peso, l'avesse scritto in internet avrebbe avuto meno peso. Il fatto che concretamente diventa un documento che lui approva ufficialmente, con tutti i distinguo che vanno fatti su quel documento, gli è costato abbastanza caro, gli sta costando caro. Ma come la pensa lei? Ma come la pensa? Lei è d'accordo che secondo, in realtà... Secondo me lui ha lanciato un suo avviso, e lo ha lanciato da un posto in cui veniva osservato di più, ci ha indotto a riflettere, ci induce tutti a riflettere sull'argomento. Se lo avessi detto io, punto. Se lo avessi detto lei, questa... qualcosa di più, perché è un giornalista, lo dice un prete, lo pubblica, lui attira su di sé tante attenzioni che tutti... Ma l'oggetto della la riflessione, secondo lei, è condivisibile? Che in realtà il sostanziale mutamento che c'è stato nel comportamento in generale delle donne dei paesi civilizzati comporta come conseguenza una violenza maschile, perché non vede più la donna che può contenere, può sottomettere, può avere come sua dipendente biblicamente riconosciuta, ma vede una persona con la sua autonomia. Qui scatta l'embolo, scatta la follia, come ha detto lei. C'è io il momento. Però non parlerei di sottomissione, io parlerei di, a parte qualche caso ovviamente, però qui io vedo gente che fa rimostranze e non smette di parlare, fiumi di parole, di urli, di parolacce che poi cominciano a degenerare partendo da un non nulla, e secondo me è anche un atto di difesa. Ognuno si difende, ognuno pensa di essere nella ragione. Sì, però fermiamoci qua, no, aggiungiamo parole a parole. Difendersi non significa fare quello che è successo, ad esempio, a Bordighera, sulle stesse pagine di giornali che parlano dell'episodio del parroco di San Terenzio Lerici, Don Piero Corsi, dicono: torna a casa o t'ammazzo, e uccide la moglie e la cognata. A Bordighera, un uomo di 45 anni, dopo il delitto, tenta il suicidio. Queste non sono fantasie, non sono amplificazioni giornalistiche, sono fatti di cronaca che si ripetono sempre con maggiore frequenza. Roberto, come la pensa? Buongiorno. Vorrei anche qualche donna telefonasse 800 24 0024. Non facciamo quelle che stanno in silenzio e ascoltano, perché oggi le protagoniste in effetti sono proprio le donne. Scusi Roberto, eccomi. No, due cose. Mi sembra che gli atti di femminicidio non abbiano niente a che vedere con le provocazioni o gli ammiccamenti, siano cose che si radicano in altre situazioni familiari che risultano sempre ignote a tutti gli altri fino a quando non esplodono. E questo è corretto, quindi, questo è corretto quello che dice. Ma volevo dire che da uomo, e da uomo che si sente ogni tanto di provocare, a questo punto mi ritengo in pericolo, visto che anche gli uomini provocano, e a questo punto qualche donna inizierà a farsi giustizia. Lei veste succinto? No, non vesto succinto. Allora, come fa? Ma perché gli uomini hanno un altro modo di provocare, volendo, voglio dire. Guardi, io alla bella età di 58 anni ancora non sono riuscito a scoprirlo. Comunque... Ah, perché lei non li vede quelli che ostentano macchinoni chilometrici? Ah, beh, quello è un altro discorso. Quello è un modo di provocare. Attraverso gli accessori. Ah, ok. Esatto. Quindi gli uomini ostentano forza, diciamo... lusso, ricchezza, e quindi provocano le donne. Donatella, cosa ne pensa? Io volevo dire questo, che non si tiene conto della statistica di questi omicidi che vengono svolti in ambito familiare, sono fratelli, sono mariti, sono ex fidanzati, dunque il femminicidio in sé, cioè, secondo me, relativo alla provocazione, forse è tanto una scusa, una aggiunta ad un qualcosa che invece è proprio nel concetto maschile, di possesso dell'oggetto femminile. Poi che si tiri fuori la storia della provocazione, secondo me è una cosa un po' a tampone, a supporto, invece di un concetto molto radicato che esiste, che è quello proprio del possesso. Quindi, secondo lei, il concetto che ha in sé affascinato il prete è un'uscita di ruolo rispetto al ruolo tradizionale, quello della donna madre di famiglia, moglie, dedita ai figli e dedita alla cucina e non al fast food, come dice appunto il pezzo di Pontifex. In realtà quello lui aveva colto, lui voleva porre un argine alla secolarizzazione, questo penso lei? Certo, perché il problema dell'omicidio, dell'atto violento in sé, è una questione familiare, ce lo dicono le statistiche, è una questione che avviene proprio in seno alle famiglie principalmente. Dunque questo è proprio così, cioè un concetto proprio di... Quindi secondo lei la provocazione che è stata, diciamo, la nota principale riportata dai giornali oggi è un aspetto secondario rispetto al problema del femminicidio, che è un termine molto brutto, devo dire, un neologismo che a me non piace molto, però rende l'idea. Massimo Lattanzi, buongiorno. Buongiorno a voi. Il dottor Massimo Lattanzi è psicologo, psicoterapeuta, fondatore dell'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia. È coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking. Il sito è www.stalking.it. Lo abbiamo avuto ospite recentemente. Proverei a sapere il suo punto di vista riguardo a quella che è la notizia del giorno. È inutile che mi scrivano gli sms con tante cose importanti, parlate di questa storia del povero prete. È indubbiamente un argomento di riflessione importante. Prego, Massimo Lattanzi. Sì, partendo dal presupposto, non sono né un giudice né un avvocato. Io credo. Beh, però conosci la casistica, diciamo. Assolutamente no, parlando del caso specifico. Io credo che Don Pietro abbia sbagliato la modalità, ma abbia fatto molto bene a focalizzare l'attenzione sulla mattanza che da decenni in Italia in qualche modo uccide. L'ultimo decennio sono state uccise 2100 donne. Massimo Lattanzi, in realtà il volantino di Pontifex da cui ha preso spunto e ha fotocopiato e messo, dice che è un'invenzione femminista la mattanza delle donne, non esiste. No, indubbiamente no, sto dicendo è la modalità, forse... L'analisi del fenomeno che i soliti tromboni di giornali e TV chiamano appunto femminicidio. Una stampa fanatica e deviata attribuisce all'uomo che non accetterebbe la separazione questa spinta alla violenza, questo dice il volantino. Esatto, è nel senso che purtroppo sembrerebbe che nel 50% dei casi sia proprio la non accettazione della separazione ad armare la mano dell'uomo. Il discorso è che forse mi sono perso qualche passaggio, ma lui ha aggiunto un'altra cosa, ha detto o tutti gli uomini sono diventati pazzi o in qualche modo la società, la cultura delle relazioni è cambiata con un passo più spedito rispetto all'accettazione delle relazioni. Lui secondo me, ma è una mia lettura che lascia probabilmente il tempo che trova, sta dicendo attenzione, nella società, nelle relazioni è cambiato qualcosa anche con le nuove tecnologie che forse noi non siamo pronti a seguire. Lui secondo me voleva dire anche questo, che gli uomini che uccidono non sono pazzi e gli uomini che uccidono danno dei segnali, perché casistica recentissima dell'Eures e dell'ANSA ci evidenzia proprio questa variabile che è fondamentale. Entro i 90 giorni dalla separazione avvengono il 50% degli omicidi in famiglia. Quindi lui voleva dire, attenzione, che le relazioni, forse per un modello acquisito, forse per la nuova cultura, ribadisco, che è molto veloce, la nuova società che è più veloce rispetto al pensiero e all'acquisizione e l'elaborazione umana. Cioè la società muta in maniera più veloce di quanto l'uomo riesca a metabolizzare questo mutamento. Assolutamente, rispetto ai ruoli, assolutamente, ai ruoli che ha letto e ha vissuto e ha metabolizzato in famiglia, rispetto ai ruoli che vivono nelle scuole, rispetto ai ruoli di genere anche, nelle relazioni, partendo dal presupposto che una donna deve essere libera di vivere i propri amori, i propri sentimenti come e quando crede. E forse in qualche modo, lo dico anche da uomo, gli uomini hanno, senza generalizzare, più difficoltà ad accettare un abbandono, una separazione, ma nessuno si preoccupa di questo, nonostante, ribadisco, che un'indagine, una statistica del decennio 2000-2011 evidenzi quanto sia pericoloso il momento della separazione e quanto sia pericoloso paradossalmente la famiglia che dovrebbe essere un contenitore, ma purtroppo, senza generalizzare, non lo è più. È un modello quasi disastroso, quasi creasse la preoccupazione, l'insicurezza nelle relazioni, oltre le nuove tecnologie. Ecco, un attimo solo, aggiorno, perché è uscita un'altra agenzia, il parroco di Lerici, Don Piero Corsi, sta dichiarando le agenzie via via e specificando la ragione del suo pentimento. La leggo, dice: con queste poche righe voglio comunicare ho deciso a metà parte l'abito talare del quale mi sento indegno, nella speranza che la riflessione e la penitenza mi consentano un giorno riconquistare quella serenità che oggi innegabilmente ho smarrito. La decisione, spiega in un inciso al sacerdote, è arrivata dopo che la notte insonne per il dolore e il rimorso per la giusta polemica causata la mia imprudente provocazione nel rinnovare ancora più sentitamente le scuse non solo a tutte le donne colpite dal mio scritto ma anche a tutti coloro che si sono sentiti offesi dal mio operato o dalle mie parole, in primis al giornalista verso il quale in un momento di ira ho proferito quella ignobile parola. Aveva dato del finocchio al collega del GR2, sì, che però non si è offeso, è stato lì tranquillo, è stato molto professionale. Maria Rosaria Ricci, 50 anni, la donna uccisa a coltellate la scorsa notte ad Eboli, nel Salernitano. Picchiata, strangolata e abbandonata ai bordi di questo parcheggio di Piazza Europa ad Arluno, un paese dell'Interland milanese, ferite al volto così profonde da non permettere la sua identificazione. La signora, cadavere sul letto, con evidenti colpi di coltello inferti, e il marito che si è consegnato autoaccusandosi dell'omicidio poco prima avvenuto. 800 24 00 24, ecco, queste sono il risultato del femminicidio. Di fronte a cadaveri squartati sul letto, donne accoltellate, donne uccise, donne fatte a pezzi, mi rendo conto tutte le posizioni ideologiche possibili, tengo conto di tutte le posizioni ideologiche possibili, però vorrei mettere sul piatto della bilancia il comportamento, l'uomo che non riesce a gestire l'evoluzione e la acquisizione di autonomia da parte della donna. Però se il risultato è questo, secondo me è un tema piuttosto delicato, su cui non si scherza, su cui non si pongono delle cause effetto così radicali e così brutalmente esternate. La donna succinta, l'uomo diventa assassino, la donna non è più mamma di famiglia e l'uomo quindi si sente in diritto di poterla uccidere, anche prendendolo le distanze, anche dicendo che sono cattivi, sono delinquenti quelli che uccidono. Però, ci possono essere dei però in questo? Franco, buongiorno. Buongiorno, vorrei notare una cosa, che spesso gli omicidi avvengono purtroppo in rapporti consolidati di uomini che furono amati da queste donne, non certo dalla aggressione momentanea dovuta all'abbigliamento succinto, quindi questo lo vorrei proprio l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, è giusto dirlo, sì. Ecco, però questi uomini che furono amati e che non accettano di essere abbandonati furono però scelti, ecco, da queste donne. Io mi pongo anche, ma senza assolutamente voler vedere nessun tipo di responsabilità da parte della donna, ma che c'è ancora un fenomeno di donne che si comportano come ci si comporta oggi e non nel Medioevo e non 100 anni fa, ma però cercano ancora il maschio dominante, cioè cercano ancora quel maschio che magari non è dominante ma è solo violento, ma che mi sembra abbia ancora un certo successo. Cioè lei, le donne cercano già cercano il loro aguzzino, quindi sono responsabili del fatto che poi questo aumenti la gradualità della sua mascolinità uccidendole, questo vuol dire lei? Beh, non sono responsabili, però nella scelta sui grandi numeri spesso la scelta cade lì, per cercare di capire, scusi, secondo l'uomo lei tranquillo, inoffensivo, è sfigatissimo spesso. Sì, ma fra uno sfigato e un uomo piacevolmente virile non è detto che debba essere la differenza fra un agnellino e un lupo. La donna è lecito che scelga un uomo che abbia le caratteristiche che lei piacciono, che le affascino, di sicurezza, di dominio delle situazioni, ma non è detto che debba scegliere un aguzzino che poi la debba uccidere. Mi sembra anche questa una soluzione un po' azzardata. Cosa ne pensa Roberto Poggi? Buongiorno. Roberto Poggi è fondatore dell'associazione Il Cerchio degli Uomini, che diciamo ha la finalità di cercare di mettere a punto un atteggiamento maschile consapevole, un rapporto diverso con le donne. Di queste letture dei nostri ascoltatori, in fondo le donne se lo vanno a cercare, cercano il maschio alfa, poi non si possono lamentare se il maschio alfa, una volta abbandonato, si sente tradito, alzi le mani. È coerente, corretto questo? Innanzitutto buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Da quello che ho sentito fino adesso, cioè, quello che emerge è che il maschile, così come è stato concepito da alcune migliaia d'anni da parte, sta mostrando alcune fragilità molto, molto forti che prima erano celate. Al giorno d'oggi ci può essere di tutto, la donna ha fatto in un modo, la donna ha fatto in un altro, un uomo ha fatto in un modo, un fatto in un altro. Sta di fatto che stiamo cambiando, sono cambiate le donne col femminismo, stanno cambiando gli uomini. E quello che emerge da questi femminicidi, da questi omicidi di donne, è che sono in Italia 150 all'anno mediamente, ma bisogna andare a vedere quello che sta sotto al... Ecco, vogliamo ribadire, Roberto Poggi, che comunque non è un'invenzione giornalistica il femminicidio. La formula, il termine può essere un neologismo, può piacere o non piacere. È una realtà concreta che maschi stiano uccidendo femmine in un numero esagerato rispetto alla media degli omicidi? Assolutamente sì, cioè è in corso questo processo che di fronte all'emancipazione della donna, di fronte a una presa di posizione della donna molto più autonoma, perché precedentemente molti uomini si trovano impreparati e mostrano il loro limite emotivo, cioè il poco contatto che hanno con le proprie emozioni e che sfocia poi in disastri. Ma se il limite emotivo ci trasforma in un macellaio, bisognerebbe un po' prendere qualche provvedimento nei confronti in generale della nostra concezione dell'essere uomini. Sicuramente sì, ma quello che tengo a sottolineare è che sotto queste 150 donne che vengono uccise in Italia ci sono milioni di donne che vengono maltrattate. Non tutti gli uomini fanno violenza, ce ne sarà un 20%, ma un 20% significa che c'è una base culturale molto importante e molto grossa in cambiamento. Questa fragilità del maschile che viene messa a nulla dall'emancipazione della donna, che sia nel vestirsi, che sia nel farsi una vita autonoma, farsi una propria posizione, eccetera, che l'uomo spesso non riesce ad accettare, quindi va in tilt a un certo punto, e che è in corso un cambiamento. Questo cambiamento delle donne ci dà l'opportunità a noi uomini di migliorare, di diventare uomini più. Posso dire una cosa, Poggio, non so se sei d'accordo. Di tutta questa lettera, il lato più arcaico è anche che tutto sommato un po' più pietoso proprio sugli abiti succinti. Non credo che oggi più nessuno faccia tanto caso agli abiti succinti, mi sembra l'ultimo dei problemi, onestamente. Siamo talmente abituati a quello, più il comportamento, più la libertà di affermarsi, di scegliere, dire ti lascio perché me ne vado con un altro, oppure di immaginare che una donna possa avere rapporti, faccio la mia vita lavorativa prima della relazione con te. Anche questo, no? Cioè, è difficilissimo per un uomo accettare questo, per gli uomini, molti uomini, non generalizziamo tu curva, ma molti uomini è difficile accettare tutto questo. L'abito succinto mette in mostra una cultura un po', come ha detto lei, arcaica, legata a vecchi schemi, eccetera. Oggi c'è un riciclaggio di questi abiti succinti nell'autonomia, nella presa di posizione della donna nella società, eccetera. E quindi un tentativo da parte degli uomini di reificare di nuovo il corpo della donna e di metterla come oggetto di desiderio, appunto, a far velina, a far bunga bunga, o che ne so, cioè questo è un riciclaggio, ok? Mario, sentiamo Mario, l'ascoltatore Mario. Sì, salve, buongiorno. Noto, Mario, fermo un attimo, Mario, noto una carenza di interventi femminili, mi dispiace perché questa mattina piacerebbe sapere come la pensano le donne, non che siano sotto la lente o sotto l'occhio o sotto il microscopio che vogliamo osservarle. Stiamo dichiarando, ammettendo una nostra profonda fragilità, che nei casi in cui l'uomo pone la propria civilizzazione di fronte al proprio istinto, si potrebbe manifestare in un profondo disagio interiore che l'uomo maschera, elabora e via dicendo. Nel caso in cui l'uomo non ha questo passo di civilizzazione, prende la motosega, l'accetta al coltello, fa pezzi le donne. Come la pensate su questo? Mario. Niente, no, io vorrei fare un passo indietro, nel senso che non sono convinto che l'abito sia il problema, cioè l'abito succinto sia realmente il problema alla base di ciò. Siamo però d'accordo. È, è importante quello che ha detto il parroco, nel senso che nel suo modo, nel senso, io penso anche un parroco che è sempre presente, è sempre circondato da donne, chi per un modo, chi per un altro, ecco, però è come se andassi a scuola, cioè attenzione, perché è vero che il vestito non ha molta responsabilità, però io maschio, ok, non posso andare in giro, come posso dire, mettendo in mostra quelli che sono i miei attributi. Spesso le donne fanno questo perché non hanno altro, anzi credono di non avere altro da offrire. Ora ci vuole il giusto senso, ci vuole la giusta misura anche nei confronti del pudore, nei confronti dell'educazione, nei confronti del rispetto dell'altro. Cioè io capisco che ci sono come posso dire, perché poi l'atteggiamento va a sé, il relativismo ci ha insegnato molte cose, non si può generalizzare, però secondo me bisognerebbe anche un po' evitare di mettere l'altro in una condizione di poter essere tentato. Ma lei sente così profonda tentazione? Forse guarda, sarà che io ormai sono vecchio e i sensi mi sono appassiti. Io posso anche vedere donne succinte per strada, possono piacermi o non piacermi, ma a me non è che mi scatta la voglia, ma di saltare. No, certo, certo, ma perché ne vedo talmente tante, lo sa? Ma certo, non è più una novità. Però lei capisce, mi scuso se sì. Ecco, però io lavoro in università, ok? Ora lei mi deve spiegare, cioè io passo, sono una persona normale con dei valori molto forti legati alla famiglia, alla normalità, diciamo. Però spesso. Sono legato ai valori della normalità, a differenza sua, eppure penso che ho lo stesso forma di controllo. Comunque, vada avanti. Ecco, io delle volte faccio fatica nei periodi estivi, le posso garantire che faccio fatica, perché poi mi metto anche in una situazione di imbarazzo, cioè il fatto che attorno a me l'università fortunatamente è piena di moltissime persone, spesso la tentano le studentesse. Ma non è che tentano me in primis, perché io ci vado sopra, è indifferente, però magari ci può essere qualcun altro che è più debole di me. Allora nel rispetto forse anche colui che è più debole di me, ma anche nel rispetto della donna in se stesso, perché la donna è anche altro, cioè la donna non è il seno formoso piuttosto che il sedere fatto in un certo modo, la donna è veramente tutt'altro. Ora ci vuole la via di mezzo, non dico che bisogna tornare agli vestiti arcaici, però voglio dire, non si può neanche pensare di andare in giro, lasciare le chiavi della Ferrari attaccata fuori e poi stupirci perché se l'ha rubata, cioè ci vuole il giusto senso. Io sono un osservatore, sì, obiettivamente le donne spesso si vestono in modo eccessivo e provocante, però sta proprio nel fatto che io non vedo nessun problema che lo facciano, non è che questo crea uno scombussolamento sociale, sono gli uomini che non abituarsi a questo spettacolo, siccome si vedono talmente tante, normalmente uno dice, beh sì, vedi, quella va in giro seminuda con tutto di fuori, pazienza, può piacermi, non piacermi, può sentirmi diritto di salutarla, ma non certo di saltarle addosso, secondo me. Barbara Alberti, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Senta, allora ecco, anch'io sono un po' stupita dalla descrizione degli ascoltatori, perché pare che intorno tutte donne nude o odalische. Avercele. Rispetto ai miei tempi noto una grande fioritura della bellezza, voglio dire. Però non mi pare che ci sia quella. E poi comunque è una cosa, cioè il povero parroco, come altri anche hanno detto, è un maniaco sessuale, perché appunto come lei sta sottolineando non è che uno è così automatico, però io non mi scandalizzerei troppo della posizione del parroco, perché in fin dei conti appunto, le sono sembrato scandalizzato, Alberti? No, voglio dire, non mi scandalizzerei in questo senso, no, è abominevole, però è la politica che ha sempre fatto la Chiesa, cioè oggi la Chiesa ancora non fa accostare la donna al sacerdozio perché è impura, cioè il grande nemico secolare della donna è sempre stato la Chiesa, quindi voglio dire, adesso non è che ci siano neanche tanti, larga guerra che la Chiesa fa all'aborto, adesso non voglio fare un altro discorso, ma insomma, e ci vuole spiegare a noi che l'aborto è orribile, certo che è orribile, lo sappiamo benissimo, meglio di loro, ed è, non è che le donne vogliano l'aborto, ma insomma una serie di cose per cui il parroco è solo il più ingenuo di tutti, che in fin dei conti esprime esprime quella che è sempre stata la politica. Cioè lui pensava di far contento il vescovo, diciamolo così. No, non lo so, lui ingenuamente, voglio dire, questa è la realtà dei fatti al di là delle parole, perché appunto io ricordo una polemica molto forte già sotto il pontificato di Giovanni Paolo II, in cui una suora americana gli chiese appunto sul sacerdozio delle donne, e lui rispose in una maniera che non adesso sarebbe lungo citare, Quindi non mi pare che sto parroco. No, resti in linea, Alberti, Alberti, devo dare la linea al traffico. Qua resti in linea, finalmente una donna, visto che non abbiamo donne del pubblico, ci usiamo le nostre. Alberti dice, in realtà c'è un profondo, radicato e ortodosso sentimento misogino nella Chiesa e il prete, nella sua ingenuità, pensava di farsi portatore di qualcosa che già trapelava, già sentiva addosso, quindi ha appiccicato il manifesto, forse senza nemmeno leggerlo troppo bene, e l'ha pagata molto cara. 800240024, Don Piero Corsi, se non altro, è stato utile a farci riflettere, a farci discutere su qualcosa che noi pensavamo totalmente elaborato nella nostra società, ma poi vediamo che non è così profondamente elaborato, non va a tutti giù che le donne abbiano una loro totale autonomia, che le donne possano avere il diritto di spogliarsi, di vestirsi, di coprirsi, di provocare quanto vogliono, non tutti va giù, o perlomeno a tutti non va giù, lo sappiamo noi uomini, ma ci sono certi uomini che si possono sentire in diritto anche di esprimere nella più banale e rozza maniera la propria mascolinità, rimettendo a posto colei che esce dal seminato, dandole una coltellata. Simona, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io sono contenta di parlare dopo la signora Alberti, che è una persona che stimo. Ma è ancora lì, può parlarci anche insieme, perché non l'abbiamo sedato. Grazie, grazie. Io volevo fare un commento rispetto alla deposizione dell'abito talare di Don Pietro Corsi, che sinceramente non sarà mai abbastanza. Vabbè, compensare comunque l'offesa che lui più di così fatto. Cosa vuol fargli un prete, però, scusi? No, non lo so, io mi aspetto, qui lo dico e qui lo nego, che lui faccia anche un gesto plateale sinceramente. E cosa dovrebbe fare, scusi? Ma non lo so, non flagellarsi sulla sapere. Pubblica piazza. Ma mi aspetto anche questo, perché sinceramente io come donna abusata e che ha subito violenze dal suo ex compagno, pur non avendo mai indossato cinti, sinceramente mi sono sentita molto molto umiliata, ulteriormente umiliata da un'azione del genere, quindi che lui abbia fatto un commento di scuse non è abbastanza. Questo mi interessa, però lei, donna che ha subito la violenza da parte del suo compagno, quindi parte lesa, quindi vera protagonista di questa trasmissione, finalmente ha telefonato. Il parroco ha fatto le sue scuse, il vescovo ieri l'aveva chiamato, gli avrà detto, questa è fantasia, non è la parte giornalistica, è una parte fantasiosa del programma. L'ha chiamato, dice, ma cosa hai fatto? Mi ha messo nei guai in questo momento delicato. Dice, ma scusa, ma ci eravamo detti fino a ieri che queste cose... No, guarda, quella cosa non si può fare. Togli quel volantino subito, poi levati, buttati via l'abito talare, chiedi scusa a tutti, anche al giornalista che gli ha dato del finocchio, e poi vediamo che succede. Certo, ecco, oltre questo, cos'altro vorrebbe fare? È ripugnante, io guardo, io le dico... Sì, ma qual è la pena, secondo lei? La pena giusta? Solo per la gogna, cioè una persona così, io la metterei in pubblica piazza. Cioè dovrebbe svergognarsi, scendere in piazza? Assolutamente sì. Essere preso a mele in faccia, frutta marcia, queste cose qua. Ma sì, frutta marcia, se il nostro signore che lui ha rappresentato fino all'altro ieri si è preso ben altri, come dire, gesti di pubblica ripugnanza, allora mettiamolo in piazza una persona così, perché se lui si toglie l'abito talare a questo punto diventa un pubblico cittadino come me, che invece devo andare a combattere e a difendermi contro una persona che mi ha aggredito e aspettare 5, 6, 7 anni e nel frattempo io devo fare un'opera di ricucitura con quello che è il mio personale, il mio vissuto quotidiano, mentre una persona così dice scusate tutti, ho sbagliato e niente, la pasta liscia. Vabbè, Simona chiede una pena corporale, non grave, ma una pena corporale equipollente all'antica gogna. Gregory, cosa ne pensa? Io volevo spostare l'argomento sul fatto non tanto degli abiti succinti o della provocazione fisica in sé, quanto al resto che c'è scritto nel volantino riguardo alla posizione della donna, che in pratica, secondo la Chiesa Cattolica, viene messa al centro del focolare, deve tenere in ordine la casa, deve far da mangiare, tutto sulle spalle della donna. Però con questo sistema non facciamo altro che rendere l'uomo come parte superiore alla donna, la donna inferiore, già diciamo nelle basi dell'insegnamento della Chiesa. Cioè, se loro devono tenere la famiglia, la casa, far da mangiare, l'uomo praticamente cosa deve fare? Però posso chiedere una cosa, Gregory? Sulla Chiesa abbiamo espresso il giudizio, già sono tutti arrabbiati perché Alberti ha detto la donna è impura. Leggetevi i libri di Ida Magli, che nulla a che fare con Barbara Alberti, sono gli antipodi, ma ha scritto qualcosa veramente serio sul concetto profondo, sulla misoginia profonda che esiste comunque nell'anima del cattolico. Ahimè è così, al di quanto se ne dica, sulla donna ideale per il cattolico è una donna che comunque è madre e vergine. Questo è indubbio che sia così. Se il modello è quello, una donna che comunque ha figli, una donna che ha una vita sessuale, non può essere che lontana da quel modello. Vittorio, tocca a me? Sì, buongiorno, se vuole. Buongiorno Nicoletti, no, mi sembra che la trasmissione, mi chiedo scusa, ma stia andando un po' fuori dal seminato. E qual è il seminato? Cioè, lì, no, per carità, l'Alberti e il professore universitario che sono intervenuti hanno un po' colto la faccenda, io la porrei così: noi stiamo parlando di una cosa che non si deve neanche citare, cioè, che significa nella nostra civiltà occidentale, nella nostra società, che significa ammazzare una donna, ma che significa? Cioè, questa è una cosa che ripugna da ogni minima riflessione. Però scusi Vittorio, a onore del vero, nessuno ha detto che fanno bene ammazzare le donne. Però si pongono dei però, quando uno mette però già comincia a essere un terreno limaccioso. No, ma nessun fanno però. Male però le donne, anche nessun loro. Nessun però, caro Nicoletti, nessun però. E quella è una cosa da ripugnare completamente. E su questo siamo d'accordo, chiaro, siamo d'accordo. Detto ciò, dietro l'Alberti c'è San Paolo naturalmente, c'è tutto il Corano, e quindi bisogna andare piano, perché poi pure c'è il Cardinale Martini, che ha detto delle cose enormi rispetto al riscatto della donna, quindi bisogna starsi attenti anche andare alla chiesa. Ma ci sono varie anime, io mica voglio generalizzare, ci sono varie anime, però io penso che nella semplicità di un parroco ha pensato di interpretare l'anima più vicina al sentire comune, ma lei vede che tra il senso del telefonato ci stanno facendo è che più o meno sì, siamo d'accordo, siamo civilizzati, uccidere è una cosa pessima, gli uomini sono dei brutti, però anche le donne da loro. Barbara Alberti, riprendiamo da questo punto. No Alberti, non la sento più, sì. Ecco, stia ferma. Si è mossa lei da dove stava? No. La sento malissimo. Riprovate a richiamare Barbara Alberti, vediamo se la riprendiamo. La telefonata inascoltabile. Vittorio se n'è andato, faccio qualche mia leggera riflessione su questa vicenda. Mi sembra che ormai sia fuori di dubbio che la vicenda del parco è iniziata in una giornata di Santo Stefano e finisce in una giornata post panettone. Non credo che avrà uno strascio, avrà un seguito. Ecco, Barbara Alberti, l'abbiamo ripresa. No, dicevo che gli uomini uccidono perché non vogliono essere contraddetti. Tu mi lasci? No, tu fai quello che dico io. Infatti appunto il prete interpreta perfettamente, le donne non sono più serve. Il fatto è che noi, che non basta fare una legge di parità perché questa parità ci sia, è un cammino lunghissimo. I maschi hanno perso un servizio. Io sono abbastanza vecchia da ricordarmi quando le donne erano serve assolute, come auspica il parroco di cui stiamo parlando, voglio dire. E quindi i maschi hanno perso un servizio. Barba, io le ricordo sempre questo mio. Non ci credono loro ancora e non ci crediamo infine in fondo neanche noi. È una grande mutazione che va fatta appunto con una severità assoluta. La signora auspica una punizione, ma quale punizione? Persino i preti pedofili vanno così impuniti. Beh, mica tutti. Qualcuno ogni tanto lo becca. Beh, sì, qualcuno, ma insomma non è che ci sia stato. Quindi voglio dire, è un cammino da fare con grande severità. L'ascoltatore che ha detto prima, signori, qui si tratta di ammazzare una donna. Ha eliminato il delitto d'onore, per cui appunto c'era una pena fino ai 7 anni. Non sono mai state ammazzate tante donne come da quando non c'è più questa legge. I maschi se la sono ripresa di forza e c'è tutta una complicità, anche come sappiamo dai casi che conosciamo, del contesto familiare, della società, un'omertà che circonda questo. Noi siamo molto più indietro delle nostre leggi. Fermiamoci un attimo, Christine. Sono un po' agitata, per cui magari non sarà molto chiara. Ma io penso che il problema è un po' su due lati, insomma, da cercare di capire. Cioè, quello che ha detto il prete è abbastanza enorme, nel senso che, tra l'altro, secondo me, il fatto che la donna appunto ostenta il suo corpo, eccetera, questo l'abbiamo detto. Il punto? Sì, non è quello che appunto fa ammazzare le donne. Quello che fa ammazzare le donne sembra che sia appunto l'abbandono dell'uomo, no? E cosa ne pensa lei di questo? Rispetto a questo cosa pensa? E cosa ne penso? Ne penso che c'è stato un femminismo, la donna appunto ha cercato probabilmente, giustamente, no? Di cercare una sua autonomia, una sua libertà, però non dimentichiamo che l'essere umano da sempre, credo, e ancora non l'ha capito, ha una difficoltà tremenda. Ferma Cristina, Monica, chiudiamo Monica all'ultimo minuto, Monica. Sì, sintetica, però. Io so che avete pochissimo tempo, ma volevo soltanto sottolineare una cosa. Cioè, noi fino adesso abbiamo basato tutta questa conversazione sulla incapacità o meno di un uomo di affrontare la fine di una relazione, la fine di un rapporto, il fatto di essere stato accettato e poi rifiutato. Ma cioè, quando succede alla donna, cioè, lei è pronta ad accettarlo? Cioè, perché lei non reagisce allo stesso modo? Cioè, così, volevo porre questo quesito. La donna non reagisce in questo modo, sicuramente non uccide, è molto più raro che uccida, o perlomeno riesce a lavorare in altre maniere l'abbandono, forse perché è abituata a generazioni a essere spesso abbandonata. Grazie a quelli che hanno partecipato. A domani.